Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Si apre, sentivamo, la via croata ai migranti. Frontiere aperte, nelle ultime ore hanno cominciato ad affluire i profughi per aggirare il muro ungherese. Ma mentre i profughi si muovono, l'Europa politica invece attende. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, prenderà in considerazione, ha detto, la richiesta giunta da alcuni paesi europei, Germania, Austria e Slovacchia in testa, di convocare per la prossima settimana un vertice straordinario. Continuerò le consultazioni, ha detto, ma annuncerà la decisione solo domani, ha scritto Tusk su Twitter. Intanto, questa mattina, al termine della riunione della Commissione europea, a parlare a nome di tutti è stata la commissaria Cecilia Malmström, che la questione migrazione l'ha gestita nella passata legislatura. Of protection, there is still some way to go and we hope that the next council... Speriamo che il prossimo Consiglio sia il momento in cui finalmente gli Stati membri trovino un accordo, ha detto. La crisi senza dubbio ha bisogno di un approccio europeo, per questo abbiamo proposto la gestione delle quote. Proprio su questo fronte, ad accelerare, il Parlamento europeo, che sulla ricollocazione dei 140.000 profughi deve essere consultato. Alle 15, tra un'ora, all'apertura dei lavori, il presidente Martin Schulz proporrà agli eurodeputati di votare già domani il parere relativo per accelerare i tempi e sollecitare un accordo. Paesi membri che però restano divisi, con il blocco dell'Est a fare muro. Credo che l'idea degli hotspot debba essere realizzata, ma quello dei rifugiati è il tema numero uno e deve essere all'ordine del giorno di un vertice straordinario, ribadisce ancora il presidente austriaco Heinz Fischer, che ne ha parlato questa mattina a Vienna con il presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella. Per l'Italia, proprio il presidente della Repubblica a rispondere. Occorre che vi sia una assunzione di responsabilità da parte dell'Unione e al suo interno di tutti i paesi. È un fenomeno di carattere epocale che richiede di essere governato non dai singoli stati, che non potrebbero farlo, non sarebbero in condizione di farlo, ma può essere governato soltanto dall'Unione nel suo complesso, da una gestione comune dell'Unione. Continueremo a parlarne. Intanto Bruxelles tra poco attende un'altra invasione. 1.000 tassisti provenienti da mezza Europa, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Germania, stanno infatti confluendo a Bruxelles per protestare contro Uber, il servizio di autonoleggio con conducente. Si raduneranno con l'intento di bloccare il quartiere europeo. Proprio da Bruxelles, dopo le contese nazionali, potrebbe arrivare infatti la regolamentazione di Uber a livello comunitario, scavalcando di fatto le norme dei vari paesi. Taxisti coordinati in tutta Europa, in Italia Pietro Gagliardi, sezione taxi dell'Unione Artigiani. Uber sta cercando in tutti i modi a livello europeo di cercare di legalizzare, dove trova sponde per far legalizzare questa cosa che in realtà in tutti gli stati ha trovato delle grosse difficoltà, visto che tutte le batoste legali che hanno preso tutti gli altri stati a partire dall'Italia e quindi hanno cercato di spostare il tiro. Noi con la Commissione europea non abbiamo avuto i contatti, abbiamo intrapreso una battaglia legale anche a livello europeo a Bruxelles, dove è in corso ancora, una battaglia legale in corso, e vedremo quali sono gli sviluppi. In arrivo da Bruxelles invece gli aiuti per gli agricoltori. L'Italia potrà contare su 25 milioni di euro di aiuti messi a disposizione dalla Commissione europea per la crisi dei mercati. Questa è la cifra messa sul tavolo del Consiglio informale dei ministri dell'agricoltura a Lussemburgo rispetto ad un pacchetto complessivo di 420 milioni di euro. Ettore Prandini, presidente della Coldiretti Lombardia, vicepresidente nazionale Coldiretti, al microfono di Livia Liberatore. La decisione è comunque positiva, anche se le risorse non coprono assolutamente quelle che sono le necessità che le imprese avrebbero in questo momento, principalmente per arrivare anche a forme di ristrutturazione del debito che purtroppo si è contratto in questi anni. Noi riteniamo come Coldiretti che queste risorse debbano magari essere utilizzate, visto proprio anche l'entità delle risorse stesse, in una forma di ritiro dal mercato di quelli che potrebbero essere le due principali DOP come Grana Padano e Parmigiano Reggiano. È fuori dubbio che a fianco di questo è ancora più importante che invece i nuovi stanziamenti in termini di risorse economiche arrivino quelle regole che da anni chiediamo, come l'obbligo dell'origine sui prodotti agroalimentari, che sarebbero l'elemento determinante che realmente può portare a una boccata di ossigeno. Allora, per il momento ci fermiamo qui con l'Europa. Ancora un buon pomeriggio da Anna Migliorati. Europa che vi aspetta, come sempre, a effetto notte. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.